da solo. We started the week by revising or learning this Mahasi technique. Quindi abbiamo iniziato la settimana iniziando o ripassando questa tecnica di Mahasi. And then we spent some time considering the hindrances. E poi abbiamo passato un po' di tempo considerando gli ostacoli. And although we have to work with them in our meditation, don't forget we also have to work with them in ordinary daily life. E dobbiamo lavorarci in meditazione, ma non scordiamoci che bisogna lavorarci anche poi nella vita di tutti i giorni. Then we talked about the specific factors that we need to develop for the meditation, spiritual factors. E poi abbiamo parlato dei fattori spirituali, quelli di cui abbiamo bisogno di sviluppare per la meditazione. Ah. Then we looked a bit more closely at the Buddha's psychology. Poi abbiamo guardato un po' più da vicino la psicologia buddista. Really to understand where the fundamental problem lies. Veramente questo per capire dove sta il problema fondamentale. And where there are two points on the dependence origination where we can find the escape. E ci sono due punti nella originazione dipendente dove noi possiamo trovare una via d'uscita. At the psychological level, observing the process of desire. A livello psicologico, osservando il processo del desiderio. And at a deeper level, to do with our basic ignorance. E a un livello più profondo ha a che fare con la nostra ignoranza. And remember, this ignorance is not culpable. Ricordate, l'ignoranza non è colpevole. It's just a neutral not knowing. È un non conoscere neutro. And that's to observe the process of arising and passing away. E poi osservare il processo dell'insorgere e andar via. To begin to recognize that the process of living is very momentary. Per cominciare a capire che il processo della vita è una cosa momentanea. You're only alive now. You? Only alive now. Voi siete solo vivi ora. That moment when I said now, whoever was there is dead. E ora il momento in cui io dico ora, qualunque cosa ci fosse, è morto. And that understanding about not self. E questo è una comprensione del non sé. Concerning that we're investigating everything that we experience. Noi investighiamo tutto ciò di cui facciamo esperienza. And to begin to recognize that we're aware of it. E per cominciare a riconoscere se siamo coscienti di questo. That we feel it. Che noi lo sentiamo. And that we experience it. Sì. E quindi che ne facciamo esperienza. So there must be something which is experiencing and something which is being experienced. E quindi c'è qualcosa che fa l'esperienza. Ci deve essere qualcosa che fa l'esperienza e qualche cosa che viene esperito. And it's the growing realization of what it is that's experiencing, which is the process of awakening. E la realizzazione crescente di ciò che è questo fare esperienza è il processo del risveglio. And the process of recognizing il processo del riconoscere that the process of letting go of letting go of what we are attached to, che il processo di lasciare andare ciò a cui siamo attaccati, is a process of liberating ourselves from suffering. È il processo di liberare noi stessi dalla sofferenza. So these are two processes that run together. Questi due processi vanno insieme. The purification of the heart, la purificazione del cuore, and the awakening of wisdom, e il risveglio della saggezza. So this is happening more obviously in the meditation. Questo avviene più evidentemente nella meditazione. But it's obviously something we can take into ordinary daily life. Ma naturalmente c'è qualcosa che possiamo portare nella vita di tutti i giorni. So now we're coming to the end of our retreat. Ora stiamo arrivando alla fine del ritiro. So we have to see how we can take this practice into ordinary daily life. E quindi bisogna vedere come possiamo portare questa pratica nella vita di tutti i giorni. Yesterday I was trying to define more clearly what the Buddha's teaching was. Ieri ho cercato di definire in un modo più chiaro che cosa è stato l'insegnamento del Buddha. And we have to remind ourselves of this essential statement he made. Bisogna ricordarsi di questo di questa frase essenziale che lui ha detto. I teach dukkha and the end of dukkha. Io insegno il dukkha e la fine del dukkha. So the dukkha is knowing what suffering is. Dukkha è sapere che cos'è la sofferenza. And remember, this also includes indulgence. Qui c'è incluso anche l'indulgere. And the cause of suffering, which is the desire. E la causa della sofferenza, che è il desiderio. And the end of suffering includes the realization of Nibbana. La fine della sofferenza include la realizzazione del Nibbana. And the Eightfold Path leading to that. E il ottuplice sentiero che porta a questo. And the whole teaching is about ethics. E tutto l'intero insegnamento riguarda l'etica. So, quindi, in the later commentaries. Nei commentari più tardi, The commentators gathered 10 of these virtues. I commentatori mettono insieme 10 di queste virtù. They don't. It's not a complete list. Non è una lista completa. No, but at least it gives us some indication as to what we need to develop. Ma ci dà qualche indicazione su quello che abbiamo bisogno di sviluppare. There's first of all those things to do with correct looking, correct seeing. Prima di tutto ci sono le cose connesse al guardare in modo corretto, vedere, guardare in modo corretto. And the word for this is panya. La parola è panya. Panya, which translates both as a passive state of wisdom. Panya si può intendere, cioè traduce sia uno stato passivo di saggezza. What you've already understood. Ciò che hai già capito. And the active process of insight. E il processo attivo dell'intuizione. In terms of liberating ourselves entirely from suffering, we are always investigating these three characteristics of existence. Per liberarci completamente dalla sofferenza, dobbiamo investigare le tre caratteristiche dell'esistenza. But this wisdom has to be translated into daily life. Ma questa saggezza deve essere tradotta nella vita di tutti i giorni. And this means that we have to develop a certain attitudes. e quindi bisogna sviluppare certe attitudini. So attitudes are not to be confused with emotions. Le attitudini non si devono confondere con le emozioni. Emotions come and go, eh? Le emozioni vanno e vengono. But an attitude is more stable. Un'attitudine più stabile. It's the way that you are translating wisdom into your daily life. È il modo in cui ognuno traduce la saggezza dentro la vita di tutti i giorni. Mm. So now, one of the main attitudes that the Buddha wants us to develop is generosity. Una delle principali attitudini che il Buddha vuole che noi sviluppiamo è la generosità. When he talks to lay people, he always begins with generosity. Quando parla ai laici, comincia sempre con la generosità. And he points out that even, I think I've mentioned this, even a thief can be generous. E lui mette in evidenza il fatto che anche un ladro può essere generoso. What is it that raises the desire to be generous within us? Che cos'è che fa crescere il desiderio di essere generosi dentro di noi? The first quality is gratitude. La prima qualità è la gratitudine. And the second one is compassion. E la seconda è la compassione. Ah. If you consider how much you've received in this life. Se consideri quanto ricevi in questa vita. Your education. L'educazione. The medical services. I servizi medici. Just the transport and the facilities of an advanced society. I trasporti, tutte le comodità, buona questa, della società avanzata. Google. And most of all, of course, your very life from your parents. E la cosa più importante, la vita che avete ricevuto dai vostri genitori. The Buddha said that even if you carried your parents on your shoulders for the whole of your life. E il Buddha dice anche se portate i vostri genitori sulle spalle per tutta la vita, you would not have repaid them. Non li avrete ripagati. So when you look back, you begin to realize you've received so much more than you've actually given. E quando vi guardate indietro vi accorgete che avete ricevuto molto di più di quello che avete dato. And when you consider that, when you reflect on that, quando si considera e si riflette su questo, there's an obvious desire to want to give what one can. C'è un desiderio di give what one can, to give what one can, di dare ciò che si può. So generosity is a great motivation for gratitude is a really great motivation for being generous. Quindi la gratitudine è la grande motivazione per essere generosi. And that's why I was suggesting that at the end of every meal there's a moment of recollection. Questo è il motivo per cui io vi ricordo che alla fine di ogni pasto ci deve essere un momento di ricordarsi questo. Yeah, this gratitude. Della gratitudine. And you know, at the end of the day, one can also recall what's been given to one by the end of the day. E anche alla fine del giorno si può ricordare ciò che ci è stato dato. Compassion, of course, is that connection with another person's suffering. La compassione è naturalmente una connessione con la sofferenza di un'altra persona. The awareness of suffering is not enough. La consapevolezza della sofferenza non è abbastanza. There has to be something which connects you. Ci deve essere qualcosa che ti connette. One example is all these refugees coming across, from Africa and from the Middle East. Un esempio può essere quello di tutti questi rifugiati che attraversano e arrivano dall'Africa, dal Medio Oriente. We've been aware of this for a long time. Noi ne siamo consapevoli da molto tempo. But when we had the picture of that little boy who died on the beach, ma quando abbiamo visto quella fotografia del bambino che è morto sulla spiaggia, there was an immediate connection with the reality of their suffering. E c'è stato a quel punto un'immediata connessione con la realtà di questa sofferenza. And the Chancellor Merkel let a million of these refugees into Germany. Huh? And the Chancellor Merkel. Ah, la cancelliera Merkel ha preso milioni di rifugiati in Germania. This might have been a political mistake. Forse potrebbe essere stato uno sbaglio politico. But it does show us what happens when you make the connection. Ma ti mostra veramente quello che succede quando si fa questa connessione. So with these two motivations, one can then find it much easier to give. With these two motivations, con due motivazioni, you find it much easier to give. Si può dare più facilmente. Now, when you give, you either give something of your wealth or of your time. Quando si dà o qualcosa della propria ricchezza o del proprio tempo. When you give something with the right quality in your heart, quando si dà qualcosa con la giusta qualità nel cuore, and you can see the happiness that you're creating, e si vede la felicità che si sta creando, even if you give to a charity and you don't know the person who will benefit. Anche se si dà a un'organizzazione benefica e non si sa direttamente a quale persona va questo. Even so, in your imagination you can see that you're making people happy. Comunque nella immaginazione si può vedere che si sta facendo felice la gente. So this makes happiness arise in us. Questo fa crescere, insorgere la felicità in noi. And this is what we mean by sympathetic joy. E questo è quello che intendiamo con la parola gioia simpatetica. So remember there are four illimitables. Ci sono quattro illimitables, Brahmavihara. Incommensurabili. In italiano vengono detti gli incommensurabili. Brahmavihara. Sì. Love. Amore. Compassion. Compassione. Joy. Gioia. And equanimity. Equanimità. But of course, all mental virtues are illimitables. E naturalmente tutte le virtù mentali sono illimitate. You can develop the heart of generosity illimitably. Si può sviluppare il cuore della generosità in modo illimitato. But of course, your finances might be restricted. Ma naturalmente le vostre finanze possono restringerlo. So now here we have the first warning, or the first. This is where we have to be careful. Qui abbiamo il primo avvertimento. Qui è dove dobbiamo essere attenti. Because remember that ego, the sense of self, is always trying to get just a little more juice. Perché il senso dell'ego sta sempre cercando di prendersi qualcosa di più. I don't like using words like ego because they have other meanings, you know, they have other meanings. I don't like using the word like ego. Ego, because, yeah. Sì, non mi piace usare la parola ego perché ha anche altri significati. So this was a slip of the tongue. È stato un sbaglio. È un sbaglio. La lingua mi ha scivolata. Sì, if you understand the self which is always self-regarding. Se voi capite il sé che è sempre self-regarding, looking after itself, che guarda sempre a se stesso. Ah, so it says, oh, when I give, I feel joy. E allora il sé dice, ah, quando io do, sento, provo gioia. Mm. So therefore, quindi, I must give more if I want to feel more joyful. E quindi, devo dare di più se voglio sentire più gioia. However, when it does that, it has, shall we say, certain boundaries to what it can give. Tuttavia, quando si fa questo, ci sono dei confini a quello che si può dare. There must be a response from the other that they've appreciated what I've given. Ci deve essere una risposta dall'altro che ha apprezzato quello che io ho dato. One of the difficult things that that we find when we meet, for instance, Eastern Buddhist monks. Una delle cose difficili quando noi incontriamo, ad esempio, i monaci buddisti dell'Oriente. Mm, and you give them something, a book or some present. E gli si dà qualcosa di regalo, come ad esempio un libro. Mm. They just take it straight faced. Loro lo prendono con la faccia senza espressione. And put it here. E lo mettono da parte. Ecco. No thank you. Non c'è ringraziamento. Ah. So you think, oh, they should say thank you. E tu pensi avrebbe dovuto dire grazie. Ah, so this is the desire of the self wanting to be appreciated. Questo è il desiderio del sé che vuole essere apprezzato. Ah, I find this impossible to do in the West. Questo non si, io l'ho trovato impossibile da fare nell'Occidente. Because people get so upset. Perché le persone si scombinano. Yeah, and they might not give me anything again. E potrebbero non darmi più niente. I remember my teacher. Ricordo il mio maestro. A Burmese monk. Eh? Monaco di Myanmar. Myanmar, yeah. He gave a book. He lent a book to somebody. Prestò un libro a qualcuno. Yeah? And when the person brought it back, he just took it and put it to the side. E quando la persona glielo riportò, lui lo prese e lo mise da una parte. At the time, we were teaching him, shall we say, Western ways. E in quel periodo gli stavamo insegnando, diciamo, i modi di comportamento dell'Occidente. So we said to him, Bhante, you should say thank you. Noi ci abbiamo detto, Bhante, dovresti dire grazie. And he said, why? It's my book. E lui disse, ma perché? Il mio libro. Ah. So, you see, different ways of thinking, eh? È un diverso modo di pensare. So, we have to be careful of the do-gooder. How do you translate that? The do-gooder. The do-gooder. Mm. Dobbiamo stare attenti a quello che fa il bene. The do-gooder. But it's the do-gooder is the person who does you good, they want to do to you. Allora questo do-gooder, cioè un benefattore. In italiano c'è questo connotato di essere positivo, invece lui dice è la persona che fa del bene, ti fa quel bene che lui intende per te. Yeah, that he wants to do for you. Che lui vuole fare per te. Ah. So, for instance, when a friend or somebody is ill. Per esempio, quando qualcuno è malato. Ah, they think, oh, I shall make some soup. E loro pensano, ah, io devo fare una zuppa. Ah, So gradino. They go to visit the sick person with the soup. E arrivano con questo brodino dalla persona malata. And the person says, I can't eat the soup. La persona dice, no, io non posso mangiarlo. So he says, oh, it's all right. Lui dice, oh. You can put it in the fridge, eat it later. Ma forse potresti metterlo in frigorifero e mangiarlo dopo. And then the sick person says, can I ask you to do something? E poi il malato gli chiede, posso chiederti di fare qualcosa per me? Yes, of course, yes, yes. Naturalmente, sì. Could you clean my toilet? Potresti pulirmi il bagno. Ah, he said, oh. So we see here the psychology of what we call a do-gooder. E questa è la psicologia di quello che noi chiamiamo di do-gooder. Ah, do-gooder. So when you see that within yourself, you see you have to recognize what's been happening within you. Quando vedete questa cosa dentro di voi, dovete riconoscerla. Now, every time you give of your wealth or of your time, you're giving something up. Tutte le volte che si dà qualcosa, o della nostra ricchezza o del nostro tempo, you're giving something up. Giving up, ce l'avevo. Stiamo rinunciando a qualcosa. Ah, sì. So, when you give your wealth to something, you're giving away something you could have spent on yourself. Quando si dà la nostra ricchezza a qualcuno, si sta dando un qualcosa che avremmo potuto spendere per noi. Ah. Now, if you give what is easy to give, you don't feel the pinch. Se si dà ciò che è facile dare, non si sente la puntura. Ah. So if there's a charity and you put €1 in the box, this is... C'è un'organizzazione di beneficenza e noi ci mette €1 nella cassetta. Then yes, it's charity, but sì, è una donazione, però. But if you look at what you've got, if you look at what you've got, se tu guardi a quello che hai, and you say to yourself, I'm not going to go to a restaurant this week. E allora ti dici, io non andrò al ristorante in questa settimana. This week, I'm going to put that €25 or whatever into that donation box. Io metto quei €25, quelli del ristorante, li metto nella cassetta delle donazioni. Ah, now that hurts, eh? Quello fa male. So, giving, I think, if we give, there has to be just a little pinch. Se noi diamo, io penso che ci deve essere una piccola puntura. Ah, we're not talking about massive sacrifice. Massive sacrifice. Ah, noi non parliamo di un sacrificio enorme. Ah. And it's the same with our time. It's the same with our time. È lo stesso per quanto riguarda il tempo. Ah, so every time I give some of my time to help somebody, that time I could have used my own pleasure, for my own joy. Per il tempo, tutte le volte che io dedico il mio tempo a qualcuno, quel tempo avrei potuto usarlo per il mio piacere, per la mia gioia. Now, giving time, we also have to be a little careful there. Anche qui bisogna essere un po' attenti quando si dà il tempo. It may be that you suffer like I do from saying yes too quickly. It may be. Può essere che that you suffer from what sì, I do. Che you suffer what I suffer from. Ah, ok. Può essere che anche voi abbiate lo stesso problema di dire sì troppo velocemente. Ah, so somebody might say, you know, I have some decoration in the house, I have to, I've got some work in the garden. O qualcuno potrebbe dire, devo fare delle decorazioni nella casa, devo fare dei lavori in giardino. And I've only got this weekend. E c'ho solo a disposizione questa fine settimana. And you say, oh, I'll come and help. Sì, sì, vengo io a aiutarti. Ah. And then when you leave, e quando esci, you say to yourself, chi dici io? I don't want to go on Saturday. Saturday's for me. Sì, io non voglio andarci di sabato. Il sabato mi serve a me. And of course, on Saturday you have a headache. E quindi quel sabato avrai un mal di testa. Ah, mal di testa or something. You see? I'm terribly sorry. I can't come. I feel terrible. Ah, mi dispiace tantissimo. Non posso venire. C'ho un mal di testa. Now, if this is something that you do. Se questo è qualcosa che voi fate, This demands a certain honesty, a certain honesty to your commitment. Richiede una certa onestà al vostro impegno. So, you, in a sense, you have to force yourself to do it. In un certo senso, vi dovete forzare a farlo. And you have to suffer it. E dovete soffrire. Ah, the next time somebody says, can you help me? La prossima volta che qualcuno dice mi può aiutare? Ah, so you stop and you say I'll think about it. E allora ferma e uno dice ci devo pensare. And then of course your action is more coming from the heart. E a quel punto la vostra azione viene più dal cuore. Rather than some impulsive desire. Piuttosto che da un desiderio un impulso di desiderio. Ah, so there's a distinction between being impulsive and being spontaneous. È una distinzione da fare tra essere impulsivo e essere spontaneo. Impulsive is coming from a lack of wisdom. Impulsivo viene da mancanza di saggezza. But when we find ourselves being spontaneously moving from the heart, this is this tells us that, you know, we're developing this compassion, this generosity and all the rest of it. Quando noi troviamo che spontaneamente ci muoviamo dal cuore, questo è, ho perso il filo, ma insomma questo this is an expression of our wisdom. Un'espressione della saggezza. Ah. I was walking with a friend of mine on the way to the station. Camminavo con un amico verso la stazione. And on the way there, I this was only maybe 10 years ago now. Circa 10 anni fa. So I was a monk. Ero un monaco. And a woman suddenly fell to the ground. Una donna all'improvviso cadde per terra. And began to suffer an epileptic fit. E cominciò ad avere una crisi epilettica. So my friend, who was a policeman, il mio amico era un poliziotto. We both went straight to see what was the problem. Andammo insieme a vedere qual era il problema. And he helped her, you know, like you have to stop them swallowing their tongue. Sì. Lui l'aiutò a non soffocarsi con la sua stessa lingua. Ah, while he was doing that, I made a phone call for an ambulance. E mentre lui faceva questo, io feci una chiamata per l'ambulanza. He then said to me, actually, when it's something like this, they don't like an ambulance because they can manage it. Lui disse, di solito quando ci sono persone che gli succedono queste cose, non amano l'ambulanza perché sanno che possono farcela. Ah, anyway, the ambulance, the emergency people said, are you at the scene of the accident? E comunque, quelli dell'emergenza chiesero: siete sul posto dell'incidente? No, he said, will you stay there? Rimanete lì. Ah, you see, they won't come unless you stay there, you see. Loro non verranno se voi non rimanete lì. Hmm. In the meantime, a driver in a van saw what was happening. Nello stesso tempo, uno che passava in macchina, che passava con un furgone, vide quello che succedeva. And I knew that I couldn't stay because I had to catch a train. E io sapevo che non potevo restare perché dovevo andare a prendere il treno. Ah. It would have ruined my routine. Avrebbe scombinato la mia routine. So I waved him down, you see. E così gli feci cenno di fermarsi. And he got out of the van. E lui got out of the van. Uscì dal furgone. I explained what had happened. Gli spiegai quello che stava succedendo. I said the ambulance wouldn't come unless somebody was here. E gli dissi l'ambulanza non arriva se non rimane qualcuno qua. And I said I've got to catch a train. Do you mind staying? E io gli dissi io devo prendere il treno. Puoi restare qua? And I went, e me ne andai. And the look on his face. E quando guardavo la sua faccia. So this was an example of of a limited giving, you know. Questo è un esempio di dare in modo limitato. Ah, it still remains on my conscience. È sempre rimasta una cosa a cui penso. So you can see that the process of renunciation is actually a process of letting go. Quindi vedete che il processo di rinunciare è un processo di lasciare andare. Mm. And so the commentaries say that this is also a path to liberation. E quindi per questo i commentari dicono che è anche un path to liberation. Ah, è il sentiero sulla liberazione. Yes, because the process of liberation is renunciation. Perché il processo della liberazione è la rinuncia. Now be careful here because attenzione qui. Renunciation, remember, is giving up wrong desires. La rinuncia è cessare, smettere i desideri sbagliati. Ah, see? It's not giving up those desires which are wholesome for us. Non è rinunciare ai desideri che sono salutari per noi. It's only those desires that come from attachment. Sono solo quei desideri che vengono dall'attaccamento. Ah, and that's what we mean by renunciation. Questo è quello che intendiamo per rinuncia. So there is this virtuous circle. C'è un circolo virtuoso. Gratitude, generosity, renunciation. Gratitudine, generosità, rinuncia. Now, you can take this into everything you do in daily life. E questo si può trasportare in tutto quello che si fa nella vita di tutti i giorni. Just in relationships. Si può fare nelle relazioni. That you consider, you know, how grateful you are for a relationship. E considerare quanto siamo grati di questa relazione. And how you feel that you can respond when the other person wants something. E quanto sentite di poter rispondere quando l'altro vuole qualcosa. So you don't go searching for something to give. Non andate a cercare qualcosa da dare. You wait to be asked. Aspettate che vi venga chiesto. Now remember, to be asked doesn't always mean that somebody actually uses words. Attenzione, ricordate che vi venga chiesto qualcosa non significa sempre che uno usa le parole. Ah. I was I was struggling up the stairs at Victoria Station. E stavo combattendo su per le scale di Victoria Station. There are so many stairs, eh? There are so many stairs. Ci sono così tante scale. From the tube to the main station. Eh? Da giù dal tube dalla metropolitana fino su alla stazione. These stations were built in the 19th century. I don't know when it was built. È stata costruita nel 19th secolo. So only the more modern stations have the elevator. Elevator. Yeah? Sì, le stazioni più moderne hanno ascensori, scale mobili. And you know, I'm carrying this bag up the stairs and feeling old. E io stavo portando questa valigia su per le scale. And feeling old. Feeling old. Old. Old. Mi sentivo vecchio. And this young man came right up to me and just took the bag out of my hand and carried it to the top. E arrivò questo giovane, mi prese la valigia dalla mano e la portò su in cima. Which I was very grateful for. E di questo io sono stato molto grato. But I really felt old. I really felt old. Old. Ma veramente mi sono sentito anche vecchio. When somebody young takes your case and carries it, you think, oh, viene un giovane e ti porta su la valigia, vuol dire che sei vecchio. yes. So, your work, the work you do. Il lavoro che fate. If you consider what you get from your work. Se voi considerate quello che prendete, quello che avete dal lavoro. Even if it's just a wage, you don't enjoy the work as such, but even if it's just a wage. Anche se è solo uno stipendio, che non vi piace il vostro lavoro, però è solo uno stipendio. At least you can put a generous attitude of giving what the firm needs. Almeno dovreste avere un'attitudine generosa di dare ciò di cui l'azienda ha bisogno. And this puts a certain meaningfulness into work which you before would have thought useless. E questo dà un certo senso a un lavoro che prima avreste potuto considerare senza senso. So that you can make something which is not you can make something which is not really what your heart wants to do. Voi potete fare qualcosa che non è veramente quello che il vostro cuore vorrebbe. But you can give it a meaningfulness through the process of generosity. Ma gli potete dare comunque un significato attraverso il processo della generosità. And that means letting go of what you want to do and do what the firm wants to do. E questo significa lasciare andare quello che tu vorresti fare e fare quello che l'azienda vuole. So this brings back a certain meaningfulness to your work. E questo riporta un certo significato nel lavoro. So it seems to me that we can so develop this gratitude, generosity and renunciation. Mi sembra che si possa sviluppare questa generosità, gratitudine e rinuncia. So that it's actually running virtually all the time throughout our lives. In modo che questo circolo virtuoso stia in moto sempre nella nostra vita. So what we need, of course, is commitment. Quello di cui abbiamo bisogno, naturalmente, è l'impegno. And this is one of these virtues. E questa è una delle virtù. It's a determination. È la determinazione. And remember that a determination lasts just about as long as you say it. Ricordate che la determinazione dura tanto a lungo finché lo dite. You're determined, for instance, to sit in the morning, and then after one or two days, disappears. Ad esempio, la determinazione di sedervi in meditazione al mattino, ma poi dopo qualche giorno. So this determination is really to try and give yourself a commitment. Quindi la determinazione è veramente di darvi un impegno. And you see, every morning I say it's an opportunity to make these commitments. E vedere che ogni mattina c'è un'opportunità di mettere in pratica questi impegni. In ordinary daily life, you need to bring this meditation practice, you know, sometime in the morning. E quindi nella vita di tutti i giorni avete bisogno di portare la meditazione in qualche momento della mattina. Even if you can only manage 2 or 3 minutes, it is worth doing it. Anche se voi potete fare solo 2 o 3 minuti, ha un senso farlo, vale la pena di farlo. Just to be able to stop for a moment. Essere capaci di fermarsi per un attimo. And this you can take throughout the day. E questo di farlo durante il giorno. So for instance, even after a telephone call, you can put the phone down and just stop for a moment. Ad esempio, dopo una telefonata, si mette giù il telefono e ci si ferma per un minuto. And you can feel what you've accumulated in the phone call. E si sentire quello che si è accumulato durante la telefonata. So you might be peaceful. Può essere anche pace. But you might also be, it might be an anxious, a bit of anxiety, a bit of irritation. Può esserci ansia, irritazione. So it's just recognizing that and just giving it a bit of time to pass away. E quindi riconoscere questa cosa e dargli un po' di tempo per passare, per andare via. And this gives you time to see your next intention. E questo dà il tempo per vedere la nostra prossima intenzione. And you have enough awareness to know whether it's wholesome or not. E quindi avere abbastanza consapevolezza per capire se è salutare o no. So the more you do that during the day, and this is what we've been doing on the retreat, Questo è quello che abbiamo fatto durante il ritiro. Quindi più che lo fate durante il giorno, the more you feel in control of your own heart, of your own mind. E più vi sentirete in controllo del vostro cuore e della vostra mente. You're not just acting out of habit. No, non state solamente reagendo alle abitudini. So the morning is important for meditation because this sets your attitude to the day. Il mattino è importante per la meditazione perché vi dà un'attitudine per il resto del giorno. Which is to try to maintain this awareness. Che è di cercare di mantenere questa consapevolezza. The optimum is round about 40 minutes or something like that. L'ottimo sarebbe di fare circa 40 minuti. But the more you can do, the better, eh? Ma di più è meglio. Di più è meglio. But remember that once it becomes a habit, you lose that commitment to mindfulness in the practice. Attenzione che quando diventa un'abitudine, si perde l'impegno alla consapevolezza durante la pratica. In other words, we get lazy. In altre parole, si diventa pigri. So once that happens, really talk yourself out of it, huh? E una volta che questo è successo, bisogna tirarsene fuori. And one thing you can do if it gets really bad. Una cosa che si può fare se questo diventa veramente importante. Just stop for a day. Fermarsi per un giorno. And then begin as a beginner. E poi ricominciare come un principiante. 5 minutes committed practice. 5 minuti di pratica impegnata. And then re-establish the good habit. E poi ristabilire la buona abitudine. Doing this and maintaining mindfulness as best we can during the day. E quindi fare questo e mantenere la consapevolezza nel miglior modo che possiamo durante il giorno. And then in the evening, before you eat. E poi la sera prima di mangiare. If you meditate after you eat, you fall asleep. Se meditate dopo mangiato, vi addormentate. So you can sit. You don't have to always sit in posture. Vi potete sedere o non potete anche non stare in postura seduta. But it's always better to do so, I think. È sempre meglio fare così. To do so così, yeah, I think. Penso. Penso. You mean sit in posture? Sì. In which you allow what happened during the day to come to mind. E in questo periodo si permette a quello che è successo durante la giornata di arrivare, di venirci in mente. And where there's been upset, to stay with it for a while, you know? E se si hanno avuto upset. Se ci sono stati dei problemi, di darci il tempo di stare con queste cose. And just wait for the heart to clear out these negative states. E dare tempo al cuore di ripulire questi stati negativi. And then, I think it's really important to recall the joys and happinesses that you've had during the day. E a questo punto io penso che sia molto importante di ricordarvi delle gioie e felicità che avete avuto durante il giorno. See, if you don't do that, you do get the impression that your life is miserable. Se non fate questo, avrete l'impressione che la vostra vita è miserabile. Because you always think of the unfortunate things that have happened. Che succedono un sacco di cose sfortunate. But if you actually look back in a day, it wasn't that bad. Se veramente vi riguardate indietro di quello che è successo nel giorno, non è stato così male. So this is your daily practice, eh? Questa è la vostra pratica giornaliera. And this demands not just determination, you've got to put energy into it. Questo richiede non solo determinazione, ma anche che ci si metta dell'energia. So remember. When something is pleasant, the energy is easy to find. Ricordate che quando qualcosa è piacevole, l'energia si trova facilmente. But when the boredom comes, quando arriva la noia, when that feeling of heaviness, dullness comes, quando arriva questa sensazione di pesantezza, di ottusità, then you've got to lift the energy. And you've got to lift the energy. Qui avete bisogno di tirar su l'energia. So that's another one of these virtues. E questa è un'altra di queste virtù. They're actually called paramita, which means that which takes you to the other shore. Il loro nome è paramita, che significa ciò che ti porta dall'altra sponda. Because remember the image that the Buddha gives us of Nibbana is an island. Perché ricordate l'immagine che il Buddha dà nel Nibbana è quella di un'isola. So the others we've talked about before, loving kindness. Di altri abbiamo già parlato, come la gentilezza amorevole. And tomorrow during the metta practice I shall explain that a little more. E che ne riparleremo domani, spiegherò meglio durante la pratica di metta. There's also this underlying attitude of equanimity. C'è anche questa attitudine che sta sotto, che è l'equanimità. So remember, that's also that lies underneath everything we do. È qualche cosa che sta sotto a tutto ciò che facciamo. So equanimity is that the balanced heart, the balanced mind. E l'equanimità è il cuore e mente bilancia in equilibrio. And when it's conjoined with awareness. Quando si unisce alla consapevolezza, then it stops these virtues falling into their more subtle energy, enemy. Questo impedisce a queste virtù di diventare i loro nemici sottili. Credo in italiano vengono detti nemici vicini, può darsi. Vicini, so love. being corrupted by attachment. L'amore corrotto dall'attaccamento. Compassion by grief. La compassione è corrotta dalla grief, un attimo. Grief. Dall'angoscia, dolore. Dal dolore. Angoscia, angoscia. And joy by excitement. E la gioia dall'eccitazione. Mm. And you can take any virtue and see its underlying enemy. E si può prendere qualsiasi delle virtù e vedere il nemico che ci sta sotto. So even gratitude can become a way of just making ourselves happy. Anche la gratitudine può diventare solamente un modo per farci star felici. And it will do that unless it's translated into the action of generosity. E sarà così a meno che noi la traduciamo con l'atto della generosità. Just a little point on that. Un chiarimento su questo. We think of love as always giving. Noi pensiamo che l'amore è sempre dare. But love is also letting love in. Ma l'amore è anche lasciare entrare l'amore. One of the most difficult things I found on becoming a monk in this tradition. Una delle cose più difficili che ho trovato quando sono diventato monaco in questa tradizione was to receive gifts from people who just gave me something because I was a monk. Era ricevere doni dalle persone che mi stavano portando qualcosa solo perché io ero un monaco. Hmm. There was an occasion when a Sri Lankan family came to see me in my hut. In un'occasione una famiglia srilanchese mi venne a trovare nella mia capanna. And the translator said they want to give you something for your rains retreat. That's the retreat you're basta. Mm. Vogliono, il traduttore disse, vogliono regalarti qualcosa per il Vassa, per il ritiro delle piogge. And for the life of me I couldn't think of anything. E io non riuscivo a pensare a niente. Ah, so I should have made something up. Huh? Dovevo inventarmi qualcosa. Ah, because I kept saying, well, I don't need anything. E io dicevo, ma veramente non ho bisogno di niente. And I remember how disappointed they were when they left. Mi ricordo come erano dispiaciuti quando se ne sono andati. Yeah, which, you know, it's like I should have realized that this was a gift that they wanted to give me. Avrei dovuto capire che questo era un dono che loro volevano farmi. I should have said tea. Avrei dovuto dire tè. Ah, there's lots of tea in Sri Lanka. C'è un sacco di tè nello Sri Lanka. But I was concentrating too much on me not needing anything, you see. Ma ero troppo concentrato su di me che non avevo bisogno di niente. Yeah, I wasn't really contacting them. Non stavo veramente in contatto con loro. Yeah. So let the love in. Quindi lasciare entrare l'amore. And the final one here is patience. E quella virtù finale è la pazienza. So the Buddha said this was the greatest virtue of renunciation. Il Buddha ha detto che è la più grande virtù della rinuncia. Yeah, della rinuncia. Because here you are letting go of any negativity towards the person or occasion which is causing you grief. Oh. Perché in questo caso si sta lasciando andare tutta la negatività nei confronti della persona o dell'occasione che ci sta causando il dolore. Mm. And remember that when we have within us all these pains that come up in meditation. Remember that when we have all these pains coming up through meditation. Che, mi venivano queste sensazioni dolorose durante la meditazione. Remember, this is an opportunity to develop patience. E questa era un'opportunità per sviluppare la pazienza. And we're lucky because, as you know, this comes from a Latin word. Siamo fortunati perché viene da una parola latina. Ah, which means to suffer. Che significa significa sofferenza. To suffer. And I don't know if it's the same in Italian, but in English you can be patient and a patient. Sì, in Italian it's the same. Che puoi essere paziente e puoi essere un paziente. Ah. So these ten give us some indication of the sorts of virtues that we can develop. Quindi questa lista di 10 vi dà qualche indicazione sul tipo di virtù che dovreste sviluppare. And in terms of our practice, every moment of the day offers us an opportunity to develop a virtue. In termini della pratica, ogni momento del giorno ci offre un'opportunità per sviluppare una virtù. Because we're talking about right attitude. Stiamo parlando della giusta attitudine. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That I have not caused greater confusion or despair. E io non abbia causato una maggiore confusione o disperazione. That I hope you see that the goal of liberation is within our grasp. E spero che vediate che il goal, l'obiettivo della liberazione è entro le proprie possibilità di essere afferrato. That you will not delay in your efforts. E che voi quindi non posponete i vostri sforzi. Ah, that you will be liberated from all suffering. E quindi sarete liberati da più sofferenza. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu. Ah, very good.